Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Maurizio, componente della street band punk rock romana Gli Ultimi. Ciao Maurizio, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao a tutti, buongiorno a Ciao. tutti. Ti chiamo per avere qualche informazione in più sul prossimo album che pubblicheranno Gli Ultimi, che uscirà il 9 ottobre, Sine Me, Tu senza paura. Prima di tutto ciò, però, ti chiederei un po' di presentare anche il gruppo, chi sono Gli Ultimi. Allora, gli ultimi sono quattro ragazzi, basso, chitarra, batteria e voce. Abbiamo Roberto alla batteria, Alessandro detto Palmiro alla chitarra, Alessandro detto Carpo al basso e io Maurizio alla voce. Passando all'album, invece ti chiedo, partendo proprio dal titolo, Sine Me, Tu senza paura, come nasce questo album e cosa significa questo titolo? Allora, Sine Me, tu, diciamo, in parte è puramente estetico, in quanto riprende un po' l'etichetta del whisky insomma, di nostra preferenza, diciamo, che ha sotto l'etichetta la scritta Sine Me, tu. Quindi un po' quella è la questione, diciamo, che ci piace estetica. A livello di contenuto, diciamo, Sine Me, tu significa senza paura e ci riporta un po' a uno spirito positivo che avevamo, diciamo, perso negli ultimi 2 anni e mezzo, visto che c'è stato uno stop del gruppo per via delle questioni interne, insomma, perché il bassista, diciamo, ha lasciato il gruppo e quindi siamo stati 2 anni e mezzo fermi e, diciamo, un'ondata più o meno negativa ci aveva un po', diciamo, inglobato nell'intera visione del progetto Ultimi, però, diciamo, ecco, senza paura, nel senso, un po', diciamo, che riporta a dare un approccio più positivo, insomma, alla questione, a ripartire senza paura, appunto, ecco. Rispetto anche al periodo, diciamo, di composizione poi di questo album, viene appunto da un periodo, chiamiamolo post-pandemico, anche se non sappiamo bene cosa succederà nei prossimi mesi, però ti chiedo quanto ha influito anche la situazione pandemica, l'impossibilità di vedersi e tutte le complicazioni della situazione storica, diciamo. Sì, diciamo che abbraccia anche questo periodo che è stato molto difficoltoso per quanto riguarda la registrazione soprattutto. In realtà, paradossalmente, a livello, diciamo, creativo, tra virgolette, è stato anche abbastanza diciamo, positivo, in quanto stavamo comunque, chi stava in cassa integrazione, chi stava a casa, diciamo, in smart working, abbiamo approfittato anche per dare parecchio corpo alla nuova stesura dei pezzi, eccetera. E il problema è stato puramente pratico, in quanto anche le registrazioni del disco erano scandagliate dagli orari delle disposizioni del governo, quindi delle volte in sala prove andavamo di corsa 3 ore, 3 ore e mezza, 4 ore, autocertificazioni, insomma è stato abbastanza diciamo, complicato registrare questo disco. Avremmo voluto magari, ecco, come gli altri dischi precedenti, stare più calmi, più rilassati e passare insomma, più tempo a curare i dettagli. In realtà non abbiamo nulla, diciamo, da rimproverarci, insomma, in questo, ecco. E alla fine è uscito fuori quello che volevamo uscisse fuori. C'è un brano all'interno dell'album che si chiama Favole, che è uscito qualche settimana fa con un video molto particolare perché ideato e creato da Zero Calcare. Ti chiedo come nasce questa collaborazione. Allora, questa collaborazione nasce veramente circa 10 anni fa, nel senso che Michele appena, che diciamo ancora non aveva, Zero Calcare ancora non aveva fatto, diciamo, il suo, diciamo, boom a livello, diciamo, non era così celebre come lo è ora, e aveva cominciato a giochicchiare un po' con l'animazione, diciamo, e quindi si era proposto lui di farci un video di una canzone che stava su un album uscito nel 2012 dal titolo Morfina. E aveva fatto circa 30 secondi di quella canzone, ma poi lui è stato comunque diciamo inglobato dal suo lavoro, quello che era, insomma, con varie fumetti, presentazioni, e non ha avuto più tempo per mettere mano a questo video. E dopo circa 10 anni lui ha detto: ma lo vogliamo fare questo video? E noi abbiamo detto: come no? Però gli abbiamo mandato qualche pezzo del nuovo disco e lui ha scelto Favole, e diciamo in tempi abbastanza brevi. E anche perché, insomma, era molto contento di fare questa cosa, in tempi abbastanza brevi ci ha fatto questo video qua e noi siamo molto contenti. Insomma, nasce più che altro da un'amicizia, una stima che abbiamo da tanti anni con lui, sia a livello, cioè lui comunque fa parte del mondo nostro, insomma, musicale, politico, tra virgolette. E quindi ecco qua, questo è quanto, insomma. Citavi proprio adesso questo mondo musicale e politico. Quanta politica ci sarà all'interno di questo album? Ci sono degli aspetti più politici che avete portato avanti nei vostri discorsi e nella vostra musica? Allora, noi, cioè, diciamo, chiaramente quando si usa il termine politico, il termine che apre porte a molte discussioni, comunque noi non siamo, diciamo, politicizzati in quanto non sventoliamo nessuna bandiera, comunque abbiamo sempre trattato temi sociali dal primo disco fino a quest'ultimo, che comunque viaggiamo da una parte sola sostanzialmente, comunque tocchiamo sempre temi del lavoro, della precarietà e della, diciamo, delle conflittualità che c'ha questa generazione nei confronti, insomma, dei tempi che corrono e quindi questa è il nostro fare politica comunque, ecco. Questo, insomma. Maurizio, io ti ringrazio e auguro una buona fortuna per l'uscita dell'album e speriamo anche di poter venire presto a un concerto degli ultimi. Grazie, con piacere.